Buongiorno a Babbo Nino, candidata a presidente della Regione Lazio, appoggiata da tutto il centro-sinistra. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Vorrei partire facendo un punto con lei sulla campagna elettorale, Bonino, perché in più occasioni l'abbiamo sentita descriverla come una campagna ariosa, interattiva, fantasiosa, sì, persino disordinata. Allora volevo chiederle come sta andando, cosa c'è già e cosa manca. No, noi ci stiamo organizzando, ma appunto non volendo un'organizzazione di tipo tradizionale, stanno nascendo vari gruppi, vari club, e noi stiamo solamente cercando di correre per dare loro il materiale proprio di base, per cui poi inventarsi le iniziative, oltre a quello che si possono scaricare tutti quanti da internet, però dobbiamo mettere dei materiali di base che poi consentano a tutti di essere loro stessi, come ho detto, candidati presidenti. E quindi stiamo procurando per esempio il materiale, come abbiamo detto, addobbate le finestre o addobbate i finestrini delle macchine. Contemporaneamente ovviamente tutta la parte invece sui contenuti, e quindi chiarire, io non voglio il programma 300 pagine, ma dei punti fissi per i settori determinanti e determinanti per il futuro del Lazio. Quindi c'è adesso tutta una fase però istituzionale che mi interessa fare, la fase dell'ascolto di tutte le categorie, dei sindacati, del ceto produttivo, piccole e medie imprese, per poi trarne come riassunto, diciamo, le opinioni e le proposte che farò, oltre a quelle di metodo che sono più note ma che devo declinare meglio per farle capire, quelle di merito e di contenuto per il futuro dei cittadini e dei giovani del Lazio e non solo. Quindi sono tre o quattro settori che vanno in modo convergente e che sono tutti, come dire, non solo scaldando i motori, ma quindi stiamo definendo l'agenda per i prossimi 15 giorni. Insomma, mi sembra un buon inizio. State entrando nel merito, anche perché infatti quello che volevo dirle è che seguendo le sue prime tappe si legge una grandissima carica in lei, un grande entusiasmo nell'elettorato diffuso, un'aria che friccica, e però un ritardo, una macchina che stenta a partire dai partiti. Non so se lei mi conferma questa sensazione. I partiti sono sempre macchine un po' lente, eccetera, ed è per questo che invece il cittadino, i gruppetti di cittadini sono obiettivamente, insomma, sono più agili, sono più svelti, e quindi io ci conto moltissimo, proprio perché ritengo che certamente i partiti hanno un loro ruolo, questo è evidente, però l'invenzione, la fantasia della gente, dei cittadini è il valore aggiunto e il potenziale che francamente poi è sempre stato usato piuttosto poco, e che invece secondo me è incoraggiato. In fondo i partiti tradizionalmente, escludo il mio che infatti viene sempre i radicali in genere considerati bizzarri, insomma, ma hanno un po' una metodologia che è oliata sicuramente, ma proprio perché è oliata è anche un po' rigida, mentre invece la fantasia di ciascuno, l'impegno di ciascuno è un potenziale di innovazione che secondo me non è stato mai molto valorizzato. Senta, volevo tornare sulla vicenda del famoso, famigerato, rincorso voto cattolico, come dice giustamente lei, come un pacchetto di voti, no? Viene trattato. Anche noi eravamo ai funerali di Pier Giorgio Welby e abbiamo visto tantissima gente di chiesa in una piazza distantissima da una porta della parrocchia chiusa, serrata, che pure era a pochi metri e molto distante da certa politica. Le chiedo su quali valori si muoverà per conquistare proprio quel voto, no? E ma non guardi, quello del Vaticano. Io penso che la questione del voto cattolico è una questione più di parte di ceto politico che non dei cittadini, e ogni giorno mi pare di averne i riscontri, cioè mi pare un grosso tema che agita parte del ceto politico, non mi pare che sia riscontrabile nei cittadini, e perché io credo che poi i valori di fondo, mia madre era cattolica, praticante, eccetera, ma i valori di fondo sono appunto la responsabilità individuale, no? Non solo la libertà, ma la responsabilità individuale, un modo corretto e di onestà, un'attenzione non solo compassionevole, ma un'attenzione operativa a quelli più in difficoltà. Insomma, sono tutti valori e modi di attenzione che hanno caratterizzato tutta la mia vita, che sia in Italia o che sia nei posti come dire, più abbandonati del mondo e del pianeta. Io credo che queste cose ci accomunano, poi ci sarà, ripeto, parte del ceto politico, non so quale, che si fa altri problemi, ma io non credo, che io penso che ci sono per esempio cattolici, praticanti o non so, che però hanno potuto organizzare i propri sentimenti e i propri affetti, magari non nella famiglia tradizionale, però mi sembrano appunto cittadini che hanno fatto una scelta o sono state costrette a farla, ma comunque se la sono assunta. E tutto questo mi pare ci accomuna questa responsabilità di sé e questa attenzione ai più diseredati. Cosa intende dire quando dice per il Lazio meno sanità più salute, Bonino? Beh, voglio dire esattamente questo, cioè che dovremmo fare in modo, come peraltro è successo in altre regioni limitrofe, non è che bisogna necessariamente andare a vedere chissà quale esempio, chissà dove, in cui in realtà bisogna aiutare la gente a non andare in ospedale, a non avere bisogno dell'ospedale, ad essere non ricoverato con tempi e degenze lunghissime per cose che si possono curare a casa o che possono avere un'assistenza a casa oppure avere dei centri sociali, lo dico per gli anziani, ma non solo, per i disabili, non è necessario ricoverare sempre tutti, appunto. E una situazione di puntare sul salute, che è un concetto complesso, non è solamente, e quindi di prevenzione sostanzialmente da molti punti di vista. Questo dico, cioè non può essere poca prevenzione, poco sociale e tutto in ospedale, questo o clinica che sia. Questo è uno dei motivi, insomma, che poi hanno reso la situazione qui in Lazio un po' fuori controllo. Però se andiamo solamente 100 km più in su e vediamo per esempio il modello Toscana, che farlo diventare è stato certamente un po' doloroso, vediamo che è possibile. Certo, bisogna scardinare non solo qualche incrostazione di potere, ma la politica, la buona politica deve garantire che chi viene nominato a dirigere un ASL lo sia nominato in modo trasparente, per concorso, oppure perlomeno con i curriculum pubblici, eccetera, eccetera. Quindi la trasparenza e le regole non sono concetti astratti, servono a rendere migliore la vita dei cittadini, a renderla più semplice. Se la legge, la regola dice che ne so, gli ospedali pubblici devono dare il 70% delle loro disponibilità al centro di prenotazione, la politica deve garantire che questo 70% viene dato, non che viene dato il 30% oppure non viene dato per niente. Non so se riesco a spiegarmi, insomma. Certamente, perché siamo fermi infatti a livelli a meno della metà. Senta, sulla sanità si muovono, lo diceva lei benissimo, moltissimi interessi, non sì, solo nel Lazio, ma anche nel Lazio delle inchieste, degli interi filoni che hanno portato in carcere anche ex membri di giunte passate, mi riferisco alla giunta Storaci. Io però mi volevo soffermare su una cosa che le ho sentito dire a Via dei Giubbonari, quando parlava dell'attacco sguaiato, volgare, di Libero, sì, nei suoi confronti, e diceva: beh, lì altro che valori tradizionali, lì si difendono valori regionali, il soldo, gli Angelucci sono gli editori di Libero, gli Angelucci sono anche imprenditori della sanità anche nel Lazio. Le volevo chiedere, Bonino, siccome gli Angelucci li abbiamo incontrati anche negli ultimi mesi della presidenza di Piero Marrazzo, questo video che era in possesso di Libero, insomma una strana trama, un po' più a freddo rispetto a quei giorni anche drammatici per l'ex presidente della regione, lei che idea si è fatta di tutta quella vicenda? Guardi, io penso che quella vicenda ha tre risvolti. Uno è un risvolto di cui si occupa ormai la magistratura, e quindi il risvolto giudiziario. C'è poi un con tutte le commissioni di cui lei parlava, e quello deve andare per conto suo, in modo credibile per i cittadini e efficiente. Se ne occupa la magistratura. Poi c'è una questione che attiene alla compassione umana, che invece interpella tutti, rispetto alla famiglia, alle figlie, a lui stesso per la verità. Quindi questo è una cosa che interpella tutti. Poi c'è invece un giudizio sul comportamento politico, e io su questo sono molto netta. Credo che quel tipo di comportamento dal punto di vista politico è inaccettabile, è deleterio, contribuisce ovviamente alla scarsa fiducia dei cittadini poi nei propri eletti, va condannato senza reticenza, bisogna girare pagina, punto. E il modo più evidente di girare pagina è quello, come dire, di essere credibili da questo punto di vista, di averne già dato prove. Per cui questa vicenda ha questi tre aspetti, ne ha anche altri probabilmente, ma insomma se ne occupa la magistratura. Per me la compassione per la famiglia soprattutto e l'impegno a girare pagine in termini di comportamenti politici. Chiaro. Volevo venire un attimo alla sinistra, Emma Bonino, credo sì. Che sia a momenti insomma l'ufficializzazione anche dell'accordo con la federazione della sinistra, non so se può sì. Confermarcelo, perfetto. Fra i nostri ascoltatori c'è chi in questi giorni, in queste settimane ci ha detto noi siamo scettici perché le posizioni dei radicali, no, iperliberiste, la Bonino a favore dell'innalzamento dell'età pensionabile per le donne, l'articolo 18, lei ha risposto ma io non devo riscrivere lo statuto dei lavoratori, sì. Devo presiedere eventualmente una regione. Forse un po' poco, non lo so se la sente di dire qualcosa di più sul welfare che immagina. No, ma io vado avanti su questo, cioè nel senso che una cosa sono le posizioni, le battaglie politiche che non solo non dismetto e che per la verità uno dei problemi di cui speriamo, ma insomma, di non aver fatto come dire le riforme per bene nei tempi adeguati e non trovarci nella situazione in cui siamo. E quindi questa è evidentemente, ma insomma mi rimangono anche le mie idee, le mie battaglie di politica estera, tanto per dirne una, insomma, solamente dico semplicemente che il ruolo a cui sono chiamata è un altro tipo di ruolo. Le dico una cosa, ho fatto il ministro del commercio internazionale e c'erano già tutte le battaglie fatte prima sui temi che ricordava lei. Credo di aver fatto il ministro del commercio internazionale in modo impegnato, in modo adeguato, quindi le idee e le battaglie che uno porta avanti e in cui crede a livello poi nazionale eccetera, non impediscono poi di fare per bene secondo le competenze e le responsabilità che uno ha i ruoli a cui è stata eletta. Uno è stato commissario europeo, credo di aver gestito anche a grandi finanziamenti, insomma, e sempre con le mie idee, ma quando uno poi assume delle responsabilità politiche, innanzitutto è a quelle che deve rispondere, se no fa un altro mestiere, non è obbligatorio, insomma. A proposito dei rapporti col governo, Emma Bonino, ieri sì. Nella stessa giornata in cui il governo ha fatto ricorso alla consulta contro tre regioni sul nucleare, il ministro Sacconi ha annunciato un nuovo pronunciamento sull'RU486 rispetto all'obbligo di ricovero. Ancora una volta viene lesa l'autonomia dei medici e delle donne senza dubbio, ma anche l'autonomia delle regioni. Sì, io credo che c'è questo, insomma, sull'RU486 devo dire questa campagna che ormai è forsennata, priva proprio di un equilibrio, per loro è diventata una battaglia ideologica, francamente, sulla questione adesso del ricovero. Insomma, per fortunatamente dalla Costituzione in poi da noi il ricovero obbligatorio e coatto non esiste. Quindi lo dico perché è così, è evidente che è un dato ideologico, fortemente ideologico, che mette in discussione tutto il rapporto paziente-medico, l'autonomia decisionale, le competenze, che c'è, è veramente più che preoccupante, come sempre, e quando si sposa ad occhi chiusi, è sempre più chiusi una ideologia. Ora, se passo al nucleare, tre regioni hanno fatto la legge, il governo la impugna. Giuridicamente è molto probabile che sia corretto, ma il punto è un altro. Il punto è il governo, senza grandi consultazioni, ha deciso il ritorno a questo piano nucleare. Malissimo. In ogni caso, vuole però per favore dire ai cittadini dove le vuole fare. No, perché se il paese torna a un programma nucleare, le centrali da qualche parte bisognerà farle. Se uno è così convinto che deve tornare al nucleare, prima di proporlo avrà già anche, come dire, studiato e capito dove le vuole fare. Se no non è un programma, che cos'è? Ora, quindi il problema è a monte, giuridicamente avrà pure ragione, ma il problema politico è a monte, e non è che le regioni o tre o quattro si sono attrezzate per dire comunque noi riteniamo che sul nostro territorio no e quindi no. Il problema è che il governo non ha il coraggio di dire, magari prima della campagna elettorale, dove pensa di farle, ma è evidente che già sa dove farle, se no non avrebbe lanciato un programma. E se avesse lanciato un programma senza aver chiaro dove le vuole fare, francamente è ancora più preoccupante. Sull'acqua pubblica o da privatizzare, cosa pensa lei, Bonino? Saprà che c'è un forum, tra l'altro al quale si è agganciata anche una parte della coalizione che la sostiene, Sinistra e Libertà, per già indire un referendum contro quel decreto del governo che dice privatizziamola. Lei che dice? Ma guardi, io di nuovo non ne faccio una questione ideologiche, so che su questo possiamo avere posizioni diverse. Quello che dico è che nella condizione attuale di mancanza di controllo, democrazia, regole, trasparenza, valutazione seria di costi e benefici, monitoraggio, convenzioni decenti, non è proprio il momento di lanciarsi in questa operazione, perché mancano i presupposti persino di un'operazione possibile. Quindi in particolare questo per esempio riguarda l'ACEA, su cui sono uscita credo in modo molto netto. Sicché c'è un punto forte di convergenza è che comunque no in queste condizioni, essendo il dibattito politico invece più aperto e appunto aperto alla discussione. Ce li presta altri due minuti? Queste condizioni no. L'altro giorno dal palco del suo comitato elettorale lì a Trastevere io ho trovato il passaggio veramente più clamoroso da un certo punto di vista, quello in cui c'era Ouattara accanto a lei, sì, e lei ha detto voglio un Lazio che non ha paura, che di sì, questi tempi è un'affermazione a dir poco coraggiosa, insomma sulla paura si governa questo paese. No, sulla paura si fanno campagne elettorali, poi una volta che uno ha ben attrezzato tutti quanti sulla paura eccetera eccetera e poi si ritrova a governare, infatti non ci riesce. Se non con legislazioni contraddittorie, persino con elementi francamente razzisti e demonizzando un fenomeno ma incapace totalmente di governarlo. Questa è la verità del nostro paese, in cui il fenomeno di immigrazione, che è antico come l'umanità peraltro, è completamente demonizzato ma certamente non governato. Quindi che vuol dire governare senza paura, ad esempio il Lazio? Vuol dire, per esempio, prendere atto che questo fenomeno dell'immigrazione, che io trovo peraltro arricchente perché c'è un'enorme parte di buona immigrazione che non viene mai sottolineata, sia nel loro contributo lavorativo, sia, ma insomma basta vedere i dati dei contributi all'INPS, tanto per dirne una, ma che non viene mai offerto come elemento di consapevolezza all'opinione pubblica e viene quindi sempre solo demonizzato come un attentato alla sicurezza, fino ad arrivare a immigrati uguali a delinquenti, insomma è evidente che in questa condizione poiché non viene accettato ma viene solo demonizzato, non si fa neanche lo sforzo di governarlo e quindi capire qual è una possibile politica di integrazione, quali sono i paletti, quali sono i tempi, quali sono i servizi che dobbiamo mettere a disposizione. Tutto questo non viene neanche riflettuto né discusso, ma proprio perché il punto di partenza è la demonizzazione del fenomeno. Lei saprà che ci sono almeno 100 lavoratori africani di Rosarno arrivati a Roma, hanno fatto una conferenza stampa un paio sì, di sì, giorni fa, non c'è stata una istituzione, fosse locale o nazionale, che ha risposto al loro appello, che sostanzialmente chiede diritti che gli spettano. Lei cosa auspica per queste persone? Guardi, noi avevamo presentato in modo veramente trasversale, e non riusciamo neanche a iscriverla all'ordine del giorno, una proposta di legalizzazione degli immigrati nel nostro paese che abbiano lavoro, come diciamo per le badanti. Come lei sa, si è deciso di legalizzare le badanti, ma di non aprire nessuna legalizzazione a nessun altro che faccia un altro mestiere, che sia pizzaiolo, che sia commerciante, niente. Ora, un'idea appunto di integrazione è quello della legalità e doveri per tutti, diritti e doveri per tutti, ma non riusciamo neanche a iscriverla all'ordine del giorno, perché quindi non, il Parlamento proprio non è che l'ha respinta, non la vuole proprio neanche discutere, per una posizione completamente, non dico solo irragionevole, dico molto di più, che è imposta soprattutto dalla Lega e rispetto alla quale gli altri del centrodestra si accodano. Ed è chiaro che se questa è la situazione, poi nessuno risponde ai 100 immigrati di Rosarno. Sul listino, Zingaretti ha suggerito che non ci siano lì le lottizzazioni, chiamiamole così, dei partiti, ma un respiro della società civile, delle parti sociali. Lei come lo vede il listino di Emma Bonino? Ma guardi, questo facciamo un'altra puntata, perché la partenza della campagna è stata, come dire, piuttosto intensa, le posso dire, io personalmente posso avere delle idee, ma non ci ho ancora sufficientemente riflettuto e non siamo neanche con gli altri degli altri partiti arrivati a quella discussione, quindi mi aggiorno ad una prossima. Va bene, intervista. La prendiamo come una promessa allora, sì, risentirci presto, grazie, buon lavoro.